da tanti punti di vista e i tanti aspetti che il carcere contiene in sé, dalle sofferenze, dagli ambienti, dai problemi che crea, da ciò che lascia nelle persone detenute, insomma, da vari, e quindi è inutile fare l'elenco, chi ha ascoltato questa trasmissione l'ha un po' visto. Dunque, la prima cosa da dire è che è abbastanza grave, purtroppo, tristemente rispondente a una previsione che pure avremmo preferito di aver fallito, sbagliato, in realtà invece è andata così. L'avevamo detto tempo fa, rivedendo un po' la storia recente del carcere, che quando i governi, il Parlamento promette una riforma, niente di grave, però una riforma, insomma, sostanziosa, che è, soprattutto che permette maggior velocità nell'accesso alle misure alternative per le persone detenute, quando poi questa speranza, questa promessa praticata per anni fallisce, cioè viene distrutta dalle stesse forze di governo e del Parlamento, e lascia non solo un amaro in bocca a chi ci aveva sperato, ma anche una situazione di depressione. Avevamo detto che, ricordando un po' la storia del 1975, quella grande riforma, perché doveva proprio cambiare il senso della galera, perché è fino al 1975, lo ripetiamo per l'ennesima volta, ma andrebbe scritto sulle mura di tutte le città italiane, per 30 anni dopo la fine della guerra, quindi dopo la fine del fascismo, le carceri italiane erano ancora tenute sotto il regolamento fascista del 1931, firmato da il giurista Rocco e il premier Benito Mussolini. Quindi quel regolamento fascista, nonostante la liberazione, nonostante la fine del fascismo, nonostante tutte quelle belle cose che si dicono nei momenti di ricorrenza, in realtà ha organizzato le carceri italiane per 30 anni dopo, fino al 1970. Questa riforma del 75, che era un po', come dire, era in cui si è cominciato a lavorare dal 68-69, quando un po' l'Italia si è svegliata da quel torpore e rincoglionimento in cui versava dal dopoguerra, dovuto anche alle repressioni feroci della Democrazia Cristiana. Ebbene, si è cominciato a lavorare a questa grande riforma che prometteva cose importanti. Quella riforma del 75, nella stesura di alcuni passaggi importanti, cioè di alcune riforme sostanziali, cioè di alcuni cambiamenti fondamentali del sistema di sanzione, che poi è impersonato nel carcere, bene, a questa ci hanno lavorato anche detenuti ed ex detenuti, perché chi meglio di chi si sta in galera sa che cos'è, che sofferenze provoca e che cosa bisogna togliere, che cosa bisogna cambiare, eccetera. Quindi aveva messo in moto tantissime energie da parte della popolazione detenuta, come lavori proprio scritti, ma non disgiunti dalla protesta. La popolazione detenuta, che si erano cominciati a organizzare in collettivi, nuclei, eccetera, nelle carceri, ovviamente non palesemente, perché è vietato l'organizzazione anche in collettivi delle persone detenute, è chiaro che avevano appunto prodotto degli elaborati molto interessanti, che alcuni ministri di allora, per esempio come il ministro della giustizia Mario Zagari, che è stato in carica fino al 74, lo riteneva di grande spessore. Poi questa roba è girata per tutto il mondo e viene ancora oggi analizzata in molte università, tranne in quelle italiane, perché qui siamo ormai alla morte civile e culturale. Vabbè, questo lo si sapeva, lo si sa, insomma, non niente di nuovo. Però appunto ci avevano lavorato, hanno fatto anche grosse proteste, le rivolte servivano a sostenere quelle modificazioni, quelle trasformazioni sostanziali. Cioè si voleva mettere in discussione proprio il sistema sanzionatorio in quanto tale, il concetto di pena, di punizione veniva messo in discussione per cominciare a mettere in piedi piedi un percorso che trovasse altre soluzioni al sistema sanzionatorio. Cioè, una persona che trasgredisce una legge va rivista sotto un altro senso, intanto perché le leggi non sono eterne, sono ovviamente cambiano in continuazione nel procedere di una società, non sono rispondenti alle esigenze delle persone, ma sono rispondenti alle esigenze del mantenimento dello status quo. Quindi ogni legge è sempre contraria all'evoluzione della società, è sempre un freno. Qualunque legge, anche la più bella del mondo, è un freno alla trasformazione, al miglioramento, all'andamento, all'avanzamento di una società, delle donne e degli uomini che vi stanno dentro. Questo è un dato di fatto. La legge viene dopo a ratificare uno stato, un equilibrio ottenuto in passato, nella fase precedente, cioè ogni fase è fatta di tumulti, proteste, lotte, analisi, contributi, eccetera. Alla fine di questo travagliato periodo, di ogni travagliato periodo, i periodi di trasformazione sociale sono sempre e saranno sempre travagliati, porta viene sanzionata da una legge. Quella legge però già riguarda il passato, dal momento che è scritta riguarda l'equilibrio dato da ciò che è successo nei decenni precedenti, negli anni precedenti, chiaro, no? Quando al momento che è scritta già per i giorni, i mesi che si susseguono, già è inadeguata, perché quel movimento che ha prodotto quella legge continua a muoversi e già ha scavalcato quell'andamento della legge. Questo è il concetto con cui ha visto una legge. La legge è il mantenimento dell'ordine esistente, quindi è il contrario della trasformazione a cui le persone, soprattutto quelle che stanno male, che stanno negli ultimi posti della società, che sono sfruttati, che sono in sofferenza, che hanno un trattamento inadeguato ai propri bisogni, vengono viste, vengono appunto messe in discussione. Le leggi piacciono a chi deve mantenere e tutelare dei privilegi, no, tra l'altro astorici, cioè non più funzionali nemmeno alla stessa società. Questo è il concetto di legge. Bene, e quella riforma del 75 fu poi vanificata dai governi reazionari. È una svolta a destra, quasi un golpe, quello, il governo del 74 di CPSI, che addirittura scalzò il centrosinistra perché dovevano fare appunto delle controriforme assai pesanti, no? Il governo Moro La Malfa fu il governo più devastante che ha avuto l'Italia dal dopoguerra, insomma, comunque sicuramente dagli anni 60 in avanti, e che ha azzerato tutto, eppure distrutto questa riforma, cambiando tutto quello che c'era da cambiare nei vari passaggi parlamentari e presentandola, facendola approvare con quella maggioranza, appunto DC, PRI, il Partito Repubblicano di La Malfa, che voleva reintrodurre la pena di morte, pensate un po'. Ebbene, venne appunto approvata, e che non aveva tenuto fede a nessuna delle promesse fatte. Quella cosa, quella più l'attacco militare alle organizzazioni del movimento dei detenuti, ha ovviamente distrutto anche le speranze, e da allora c'è stato l'incremento di suicidi nelle carceri italiane. Questo è un dato di fatto, non è una finzione. Ci sono state tante analisi fatte, cioè ricerche fatte da giovani studiosi, che però appunto sono state cancellate perché non piace dire queste cose. L'ignoranza, come sapete, è quella che proprio mantiene la reazione, la conservazione. Conservazione, reazione e ignoranza sono sinonimi, e quindi non si sa questo, non la studiano nemmeno in quelli che poi studiano il carcere. Però è successo questo. Allora, nelle trasmissioni scorse, chi ci ha sentito, avevamo sollevato questa perplessità, vedendo come anche questa riforma, anche questa iniziata nel 2015-2014, addirittura con tutto un travaglio, lavori, commissione, dibattiti, convegni, gli stati generali dell'esecuzione penale, così vennero chiamati, tantissime commissioni dove c'erano giuristi di grande fama, ma anche persone che conoscono il carcere, cioè di tutto, si è messo dentro perché volevano anche lì dare un segno di riforma al carcere. Bene, quella cosa lì poi diventò una legge delega approvata nel giugno del 2017, che delegava il governo a fare i decreti attuativi di quel quadro generale di riforma. Il governo molto lentamente e questo è un problema, è una responsabilità, perché c'era già tutto pronto, ci ha messo da giugno, ha licenziato questi decreti nella vigilia di Natale, il 22 dicembre del 2017, quindi le feste di Natale, subito dopo le feste di Natale sono state sciolte le Camere, perché a marzo si doveva votare, ricordate, no? E quindi non c'erano più, cioè non c'era più un governo in carica, perché era stato bloccato, no? Rimaneva solo per le ordinarie amministrazioni. Sono state sciolte anche le commissioni, perché la legge delega, una legge approvata dal Parlamento che delega il governo a emettere i decreti attuativi di quella riforma delega, poi deve passare nella commissione Senato e Camera, giustizia in questo caso, che deve verificare che i decreti rispecchiano il mandato di quella legge delega. Tutto questo non è potuto succedere, perché appunto nel periodo elettorale sono state sciolte le Camere e quindi si è bloccato tutto. Dopo le elezioni, avete visto, è questione di questi giorni, i mesi passati, perché non si riesce a fare un governo, quindi non ci sono nemmeno le commissioni, eccetera, eccetera, la cosa è stata bloccata e praticamente non si è fatto niente. Questa cosa, quindi quella riforma è naufragata, è stata fallita. Questo quel lavoro non era una grandi cambiamenti, era una riforma che rendeva attuabili, praticabili le riforme, quegli accenni di riforma contenuti nei decreti legge del 2012-2014. Quelle leggi scritte molto male, perché scritte in fretta e furia sotto la scuda della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che aveva sanzionato più volte l'Italia perché teneva le carceri in condizioni disastrate, cioè un sovraffollamento oltre i limiti del gestibile, e fatte in fretta e furia, chiamati dai giornali cretini svuota carceri, che non hanno svuotato ben niente ovviamente, ma i giornali, sapete, dicono queste cose, fanno così, è stato quindi messo tutto così in frigorifero. Nel frattempo le vicende conoscete, la nuova maggioranza Lega 5 Stelle ha cercato di fare un governo, che fino a stamattina non ha funzionato, non l'hanno fatto, poi non sappiamo quali gli sviluppi, ma non ha importanza, perché ormai questa riforma è decaduta. È decaduta perché ufficialmente ricade il 12 di giugno, quindi fra 15 giorni, perché dopo un anno la legge delega, se non viene attuata, decade. Ma di fatto adesso le forze, le maggioranze parlamentari, anche la minoranza, tutto il Parlamento uscito dalle elezioni di marzo, del 4 marzo, è contrario a questa riforma. Diciamo, non è che porta grosse innovazioni, ma rendeva attuabili quelle già contenute nelle leggi scritte male, che non permettevano di essere applicate. L'elemento centrale era il passaggio per le pene piccole o i residui pena alle misure alternative. Praticamente, se uno ha una condanna inferiore a 4 mesi, lo diceva la legge del decreto del 2012, riveduto nel 2014, e lo diceva anche questa riforma, non va in carcere, ma passa direttamente dal processo alle misure alternative, senza passare per il carcere. E anche se uno invece sta facendo il carcere e è arrivato a una pena residua di minori di 4 anni, va in misura alternativa. Tutto questo, quindi la riforma non è passata, però c'è stata nel frattempo una sentenza della Corte Costituzionale, la Consulta, l'organo supremo di questo Stato sul terreno giuridico, e la Consulta ha detto: guardate che l'interpretazione esatta di quella legge, di quel decreto del 2012, anche se è scritto male, perché appunto ho fatto in fretta e furia, però deve intendersi come 4 anni. Con una pena meno di 4 anni non si passa attraverso il carcere. Il giudice che ti condanna chiama direttamente i servizi sociali, ti affida ai servizi sociali, in modo che loro, in rapporto col magistrato di sorveglianza, ti organizzino la misura alternativa, che può essere affidamento in prova ai servizi sociali, misure, firme, divieto di movimento, obbligo di dimora, quelle le varie misure alternative che si offrono. Quindi la cosa in realtà già è la Corte Costituzionale, vale una sentenza della Corte Costituzionale vale quanto una legge, nel senso che non si può far finta di non conoscerla. Quindi, però hanno fatto fallire, diciamo, tutto l'arco parlamentare, tutto, diciamo la verità, ha fatto fallire questa legge. Ci sono state perfino gli avvocati, hanno fatto sciopero, più di uno sciopero, hanno fatto diversi scioperi per sollecitare, ci sono stati, hanno fatto appelli da tutte le parti, di quelli che insomma stanno un po' dalla parte di un minimo così di, come dire, di non fare dei lager, delle carceri, hanno fatto appello al Presidente della Repubblica, bla bla bla. Si poteva dare via a questi decreti, perché appunto quando sono assenti le commissioni il Presidente della Repubblica può far propri quei decreti e quindi metterli, avviarli, e il Presidente del Consiglio uscente, cioè Gentiloni, ma non l'hanno fatto. In più appunto nel programma che c'è il che hanno fatto la maggioranza che si è formata, che doveva fare il governo, finora non l'ha fatto, comunque è sempre una maggioranza parlamentare, sempre Lega 5 Stelle, hanno nel loro programma la parte riguardante il carcere, la giustizia del carcere, riguarda una visione completamente opposta a quella riforma lì. Dice per esempio vanno riviste le tutti i meccanismi premiali, perché vanno ristretti, cioè rivisitazione, questo era il termine loro, rivisitazione sistematica e organica di tutte le misure premiali in senso restrittivo. Vuol dire che appunto che sono le misure premiali? Quelle che se hai buona condotta ti riducono i 3 mesi ogni anno di carcere, quella che danno i permessi, quella che ti danno l'affidamento in prova dei servizi sociali, cioè le misure alternative, cioè tutta questa roba qua. Vabbè, il fatto che la difesa è sempre legittima, cioè armare tutti i bottegai che quando viene uno per rubare gli possono sparare in testa e non è più un reato, se uno ammazza un ragazzino che viene a rubare non è un reato. E poi vabbè, la questione sull'immigrazione, no, pesantissima, l'abbassamento della soglia di punibilità per i minorenni, che ancora in Italia sta oltre i 13 anni, abbassarla di più, quindi in modo che le ragazze di 10 anni possano andare in galera, insomma è una cosa orribile, il piano dell'edilizia carceraria, quindi aumentare le carceri, per cui la prospettiva loro è far aumentare anche le persone detenute. Questo è un po' il quadro, riprendeva un po' questo piano, qualcuno ci ha un po' messo il naso, riguarda un po' quello che era il piano di Angelino Alfano, ministro della giustizia nel precedente governo, prima di diventare ministro degli esteri, ricordate, no? Lasciando il posto ad Orlando alla giustizia, prima il primo governo era stato Angelino Alfano, era stato ministro della giustizia con il governo Berlusconi, lui era l'avvocato di Berlusconi e quindi faceva, e a lui allora propose un piano della giustizia e quindi anche del carcere più o meno simile a questo di Lega 5 Stelle, questo che hanno scritto nel loro piano. Quindi voglio dire, c'è un po' una situazione, questo per dire, adesso noi vogliamo dare, nessuno, io non speravo che questa, sapevo che l'abbiamo detto mille volte da questi microfoni, che questa riforma non era un granché, non avrebbe, che non c'era sta gran volontà, Orlando più che altro ha fatto tutta questa grande messa in scena forse per darsi uno spessore, una statura morale come ministro della giustizia, però poi concretamente non è uscito fuori niente. E poi il problema è che però le persone detenute hanno cominciato a vedere già da aprile che la roba scricchiolava, perché il tempo passava, le camere erano sciolte, pure le commissioni, il governo non assumeva questo incarico di prendere questa legge e dargli via, tutti nicchiavano, quindi si cominciò nelle carceri, che pure avevano visto qualche migliaio di detenuti fare lo sciopero della fame a staffetta, l'hanno fatto per anche loro, no? Insieme a tutte le altre mobilitazioni per dire al governo di accelerare questa riforma. Hanno fatto un sacco di scioperi della fame, non so, ma credo che 4-5 mila persone abbiano fatto questo sciopero della fame. Quando si è visto i primissimi di aprile che la cosa scricchiolava, quindi questa speranza veniva meno, questa prospettiva si annebbiava, sono incrementati i suicidi. Quel terrore che pensavamo, cercavamo così di buttar via, di non, invece è successo così. Dai primi di aprile a oggi, non sono passati nemmeno 2 mesi, sono contati 11 suicidi, un record per 2 mesi, attenzione, 2 mesi, se per 2 mesi si fanno, se ci sono 11 suicidi, se lo mettete lungo l'anno, moltiplicato per 6, 11 viene 66 suicidi, un record di massacro spaventoso. Però ci sta, perché il suicidio non avviene, questo appunto è stato scritto dalle persone serie che hanno fatto ricerche sul suicidio in carcere, che è molto alto ovviamente, non avviene perché le celle sono sporche, oppure i muri scrostati, vecchi, o non o mancano i servizi. Quelle cose implicano sofferenza per chi sta dentro, fastidio, sofferenza, tante cose brutte, ma non depressione che ti porta al suicidio. La depressione ti porta al suicidio avviene da l'azzeramento di una prospettiva, chiaro, no? La prospettiva, quando si discute di una prospettiva, la possibilità che cambino alcune norme fondamentali, quindi la persona detenuta può dire: io aggancio il mio futuro a questa prospettiva che sta in questa riforma, in questa legge, in questa cosa. Quando viene meno quella, uno è come se venisse di nuovo carcerato, perché si fa i conti, sono bravissime le persone tenute a fare i conti, allora fra 6 mesi, fra 3 mesi, a 5 mesi, questo, più questo, posso uscire, crolla tutto quello e lì arriva la depressione, perché non ha strumenti la persona detenuta per ribaltare questa riforma che la stanno distruggendo. La popolazione carcerata, soprattutto oggi, non ha possibilità di rimetterla in vita, no? Ecco, no, a parte che non ce l'ha avuto manco tutta l'organizzazione, che pure è forte, delle camere penali. Le camere penali sarebbero i difensori, no? I difensori penali, quelli che difendono, che sono tutti gli avvocati, sono una forza enorme. Beh, la Camera Penale Nazionale insieme alle Camere Penali regionali hanno fatto 2 giorni di sciopero, poi ne hanno fatte altre a scacchiera, hanno fatto la loro battaglia. Non è servito a niente, quindi è chiaro che questa cosa ha portato alla depressione. 11 suicidi, questo gioco dei cretini, ma forse sarebbe bene chiamarli criminali, perché quando si ammazza la gente, poi come volete chiamarli, decidete voi come chiamarli. Insomma, questo purtroppo era tristemente vero. Chi opera giocando con le persone come se fossero delle marionette, è chiaro che crea dei crimini contro l'umanità. Questo, come quello del 75, sono come quelli tanti altri durante la storia del carcere recente, che si buttano le speranze, poi ovviamente si azzerano e si produce l'incremento dei suicidi. Questo è successo in Italia e quindi ecco, vediamo i numeri. A oggi i suicidi sono 20 dall'inizio dell'anno, però 11 in questi 2 mesi, aprile e maggio ancora non è finito, perché questo rilevamento va a un discorso, quindi mancano ancora 4 giorni. Comunque tantissimi, 11 suicidi, quando la cosiddetta riforma, quel piccolo aiutino dato alle persone detenute, è stato miseramente, volgarmente, con una volgarità veramente abietta, triste, criminale. Questa è la criminalità, da tutto il ceto politico, tutti quelli che calcano il Parlamento, perché non si è levata una voce con forza che ha detto: ma dai, ecco. Quindi tutta quella gentaglia lì ha prodotto finora 11 morti e non è finita qui. Fuck! E allora vediamoli questi, gli ultimissimi suicidi, eccolo qua, 36 anni a Viterbo, un ragazzo si è suicidato, si impicca in cella di isolamento lunedì sera. Era in isolamento, detenuto in isolamento, e se pensate doveva uscire tra meno di un anno, quindi non è tanto la lunghezza della pena che determina quella depressione che porta al suicidio. E quindi insieme che ho cercato di dire, non è una cosa facile, anche perché si parla della vita delle persone, non sono, il suicidio non è un gesto inconsulto, non è come dicono quei persone non da bene che sono gli psichiatri, che dicono ma in carcere sono tutti malati di mente, ma forse loro hanno qualche problema nei loro neuroni, gli psichiatri, perché malati di mente in carcere non ci stanno. Il suicidio è un fatto attentamente ragionato per parecchio tempo, da tanti punti di vista, dalla persona detenuta, e solo quando non trova vie d'uscita pratica il suicidio. Infatti doveva uscire da meno di un anno, però non è quello, è che non vedeva prospettive né in quest'anno da fare, ma nemmeno dopo. Quando esco, che faccio? Qual è la prospettiva? L'altro suicidio, questo parlo degli ultimi due recenti, ma appunto sono stati 11 in questi due mesi, 38 anni, un ragazzo marocchino nel carcere Montorio a Verona, pensate, stava dentro per aver rapinato un paio di scarpe del valore di 35 euro, quindi non un grande paio di scarpe nobili, e perché era scalzo. Voleva trovare un paio, rimediare un paio di scarpe, l'ha rapinato, poi è stato arrestato, messo in cella e si è suicidato. Qui la cosa è abbastanza chiara: se una persona dice in questa società non sono in grado nemmeno di calzarmi, di trovarmi un paio di scarpe per metterle, evidentemente sono inadeguato a questa società. Da lì il suicidio. Io penso però che è la società che non è adeguata alle donne e agli uomini che si trovano un po' in difficoltà, perché non capite perché? Perché se uno non riesce a calzare i propri piedi, perché l'essere umano ha bisogno di scarpe per camminare sul selciato, almeno da parecchi secoli o millenni, ecco, è chiaro che se si suicida è perché si ritiene inadeguato, ma probabilmente è la società inadeguata. E questo è un pensiero che dovremmo fare. Questa società in cui viviamo, in cui molti dicono che di star bene, lo fanno per vigliaccheria in genere, anzi la gran parte delle persone, non quelle dei piani alti, dicono che stanno bene perché hanno la vigliaccheria di dire questa società fa schifo, hanno paura di dire questa cosa perché metterebbe in discussione la finta tranquillità che si sono creati. L'altro morto è un morto invece per cause da accertare, a Secondigliano, a Napoli. Secondigliano muoiono come le mosche, cause da accertare, è stato presentato un'esposta alla procura per chiedere che venga fatta luce sul decesso. Sono i parenti della vittima che si sono appunto, hanno messo in moto degli avvocati, perché ritengono che le critiche condizioni di salute del giovane, questo era molto più giovane, e nonostante queste critiche veniva tenuto in cella senza nessuna cura e senza nessuna ricerca. E quindi questi sono gli ultimi. Però rimaniamo alla salute in carcere. Dunque, la regione Toscana, l'Agenzia Regionale Toscana di Sanità ha fatto un'indagine sullo stato di salute delle persone detenute nella regione toscana. È la quarta rilevazione della salute dei detenuti, delle persone detenute in Toscana negli ultimi 10 anni. I dati sono questi. Loro dicono, ma lo dicono loro che sono allarmanti, vediamolo noi. Il 58,7%, quindi molto più della metà, della popolazione detenuta è affetta da almeno una patologia consolidata. 58,7%. E la maggior parte di questi stanno nel carcere Sollicciano, dove la percentuale di persone con una patologia consolidata è del 62%. Poi c'è il caso dei disturbi psichiatrici. Le patologie psichiatriche più diffuse colpiscono il 38% delle persone, 38,5% delle persone. e le malattie infettive o parassitarie il 16% e via via quelle dell'apparato digerente così il 9%. Questo fatto però che il 30, delle patologie più diffuse che sarebbero quelle disturbi psichiatrici, chiamati disturbi psichiatrici, cioè è un errore spaventoso che fanno queste persone psichiatriche che ricercano, cioè hanno veramente un modo di approcciare alla sofferenza delle persone veramente un po' demenziale, questo sì, loro sì sono demenziali, nel senso che quando uno sta in quella condizione lì, considerate il carcere, provate, se non ci siete mai stati, provate a mettervi nei panni di una persona reclusa, chiusi in spazi ridotti, nulla dipende da te, ma tutto dipende da persone esterne, cioè tutto quello che succede, tutto quello che devi fare, puoi scendere all'aria, decide l'amministrazione, puoi mangiare, decide l'amministrazione, i tempi per mangiare, per dormire, per fare la passeggiata all'aria, per leggere, per incontrare gli altri, sono tutti decisi da persone esterne, cioè vuol dire azzerare completamente quel minimo di autonomia che hanno tutte le persone. Tutte le persone che stanno a casa, ma anche al lavoro, a parte che oggi stanno anche modificando questo, però se uno c'ha un momento di stress forte, smette di lavorare, in qualche caso è possibile, non dappertutto purtroppo, si va a fare una passeggiata, si accende la sigaretta, si beve un caffè, comunque fa chiacchierare con un altro e scarica un attimo quella tensione. In carcere non lo puoi fare perché è tutto deciso dall'esterno. Questo azzeramento totale dell'autonomia di una persona, che è l'essenza, una persona è tale, è persona, è essere umano, è uomo o donna, soltanto se ha un grado, non totalmente, quello è l'obiettivo che dovremmo raggiungere, ma almeno un certo grado di autonomia lo deve avere. Uno mangia quando c'ha fame, quando vuole mangiare, beve quando vuole bere, va a farsi due passi quando vuole, non quando qualcuno decide adesso è l'ora d'aria, se non ci vai adesso non ci vai più. Queste cose. Quindi non sono disturbi psichiatrici, sono... è il contenimento, è come legare una persona al letto di contenzione. Il carcere è molto simile a quello che si chiamava il balilla, che è il letto di contenzione. In gergo carcerario il balilla è il letto di contenzione. Prima le persone carcerate che facevano le rivolte, i ribelli, anche se uno o insultava la guardia, la griglia eccetera, venivano chiamati affetti anche loro di subire, e li legavano al letto di contenzione. Il problema è perché in carcere ti vogliono vedere come una ameba inesistente, cioè l'aspetto, l'elemento umano va tolto, l'organizzazione del carcere è fatta così, bisogna togliere gli aspetti umani dalla persona reclusa per ridurla a un robot che faccia quello che l'ordine della società, l'ordine capitalistico vuole che faccia. Questo è il carcere, nient'altro. Quindi quella distruzione del minimo di autonomia porta agli atti di autolesionismo, no? Io allora mi faccio male da solo, visto che questo lo posso fare, e quindi c'è questa battaglia del proprio corpo tra detenuto e amministrazione. Il campo di battaglia è il corpo del detenuto, della detenuta, che vuole essere preso in controllo dall'amministrazione, e il detenuto, la detenuta lo sottrasse. Questo non c'entra niente con i disturbi psichiatrici, questo è il disturbo indotto dalla galera. Casomai i disturbi psichiatrici ce l'hanno coloro che esaltano la galera, per esempio tutti quelli che siedono in Parlamento, il 99% dei giornalisti, questi che esaltano la galera ci deve essere, e anche la gran parte della popolazione deficiente che sta che condivide con noi questi luoghi, queste città, che sono convinti che allora se quelli sì hanno un disturbo psichiatrico, perché non riescono a ragionare su che cosa qual è la distruzione della persona prodotta dal carcere. Vabbè, quindi queste comunque sono le realtà, i livelli di salute in carcere, rispetto ai quali non si fa assolutamente nulla, perché sono stati tolti, anzi addirittura i soldi per le visite ospedaliere ai carcerati. Quindi molti muoiono perché dicono mi sento male, se il dottore non è una persona sveglia e dice sì, vediamo, insomma, sì, la cosa è grave, e fa la richiesta del trasferimento in ospedale per una visita, per una analisi eccetera, è chiaro che stai lì, rimani lì e lì muori spesso, no? Va bene, va male anzi, però questo è il problema. A corredo di queste vicende c'è il punto che sono stati condannati a 3 anni di reclusione E questa è una storia non perché la giustizia ha trionfato, no, ma perché è bene ricordare il fatto, perché tre guardie sono state condannate, ma a fronte di questo ci stanno centinaia che invece fanno le stesse cose e vengono assolte. Il problema qual era? Un ragazzo che si chiamava Ismail Latif, nel carcere di Velletri, aveva scoperto che alcuni graduati della polizia penitenziaria rubavano, lui stava alla cucina e quindi si accorgeva che rubavano roba da mangiare, insomma, no? E se la portavano via. Guarda una volta, due volte, tre, quando era sicuro di questa cosa, denuncia a un superiore della polizia penitenziaria questo atteggiamento di questi due assistenti, ispettore e assistente. Questi quindi vengono, si inizia l'inchiesta, però lui rimane in carcere e rimangono in carcere pure l'ispettore e l'assistente che lui aveva denunciato. E che cosa non gli fanno questi due? Botte, lo sequestrano spesso quando stanno in servizio loro due, lo portano in sale, in posti così riservati, danno un sacco di botte, lo massacrano, per fortuna questa cosa ogni tanto ha trovato un procuratore della Repubblica che è andato avanti, che in genere finiscono nel nulla queste cose qui, e l'ha portato davanti al giudice. Questo sai, con 3 anni di reclusione questi due agenti di polizia penitenziaria. Però per dire, queste cose succedono. Quando tante volte succede che un detenuto pestato dalle guardie oppure vede delle porcherie e non denuncia, voi dite: ah, perché non denuncia? Questi non rispettano la legalità, si dice. Cioè, il cittadino e la cittadina sono diventati veramente stupidi. A forza di vedere la televisione si diventa stupidi. Non è cattivo, non è un insulto, è la constatazione oggettiva, obiettiva di una realtà. Perché dicono, no? Questo lo dicono tutte le persone, perché i detenuti non denunciano le guardie che li pestano? Ecco, pensateci. Non tantissimo, un paio di minuti, perché se tu denunci, tu rimani in carcere, non è che ti portano fuori perché tu per salvaguardarti, tu rimani in carcere, la guardia pure rimane in carcere e ne pigli tanto le botte che pigli, ma poi la guardia, per giustificare le botte che ti ha dato, ti fa la denuncia, tu mi hai aggredito e io per difendermi ho dovuto dare le manganellate. Quindi tu ti becchi le manganellate, le botte, i cappottoni si chiamano quelli che ti danno quando ti portano in un posto del bubù, e più anche la denuncia. Capite come funziona il discorso? Non parlate a vanvera, è meglio un silenzio riflessivo piuttosto che chiacchiere a vanvera. Allora, eccoli qua, 15:43, questi residui minuti della trasmissione vi porto a fare un giretto. Aggiriamoci per quelle sale purtroppo conosciute da chi va in carcere poi, che sono i tribunali oppure le corti d'assisi, dove le persone, uomini e donne, vengono processati e condannati, in qualche caso anche assolti. Allora, che cosa dice la legge, i grandi principi della legge? La legge dice punisce i trasgressori della legge, quelli che violano la legge, ma lo fa soltanto se ricorrono questi fatti. Le persone imputate, e quindi che poi possono essere processate, devono essere uomo o donna libera, devono essere persone libere che liberamente hanno scelto consapevolmente di trasgredire quella legge. Questo dicono i principi del diritto, le grandi cose. Tutto l'ordinamento giudiziario si basa su queste regole, che sono le regole originarie che valgono per tutti gli ordinamenti giuridici delle cosiddette democrazie occidentali, ma anche di altre, sono basati su questi principi. La legge punisce i trasgressori e attraverso un processo che presuppone che le persone imputate devono essere uomini o donna liberi, altrettanto liberi devono essere le persone che le giudicano, giudice o corte. Chiaro queste cose? Ecco, tanto già ditemi voi se ricorre questa presunzione. Sono persone libere uguali? Quello che non c'ha la scarpe era libero uguale di non prendersi un par di scarpe? Secondo me no, ma a parte questo, si omette, cioè non c'è in questi grandi principi l'aspetto economico. Cioè tu se hai trasgredito la legge e sei considerato uomo o donna libera e che consapevolmente e liberamente hai scelto di fare quel reato, anche se stai a zero lire, non c'hai manco un centesimo per comprarti un bicchiere d'acqua, oppure se c'hai miliardi sei uguale. Avete visto come quel produttore americano, se ne è tanto parlato, no? Gil Stella, come si chiama, che ha incriminato per stupri, numerosi stupri, quindi è entrato in carcere, c'è stato 3 secondi, ha portato $1 milione, è uscito subito, perché appunto con la cauzione alta, 1 milione, tutti hanno 1 milione per potersi pagare la cauzione? Domando. Rispondete voi, a me non mi interessa. Quindi questa è la prima finzione della fase processuale: uomini e donne liberi sul banco degli accusati, uomini e donne liberi dall'altra parte della scrivania, dove c'è scritto la legge uguale per tutti. Accusa e difesa devono essere sullo stesso piano, altro grande principio intoccabile: accusa e difesa devono essere sullo stesso piano, anche quando uno può permettersi, il più grande avvocato del foro o del mondo o di quel paese, e invece l'altro si può permettere l'avvocato d'ufficio, perché non c'è soldi per pagarsi l'avvocato d'ufficio che dice in genere, dice mi rimetto alla corte, no, questo, però dicono che devono essere sullo stesso piano. Anche qui si trascurano gli aspetti economici, la di conoscenza, perché c'è pure chi conosce e chi non conosce l'ordinamento che ha infranto, di status sociale, c'è cioè chi conta di più, chi conta di meno, quello di classe e tutto il resto, no? E va bene, però devono essere accusa e difesa liberi ed equivalenti, non ci devono essere nessun'altra cosa che ostacoli questa libertà e uguaglianza dell'accusa e della difesa. Prendiamo per buono questa finzione che è una presa in giro, ma mettiamo che anche questa sia vera, in una futura società potrebbe essere vera. Subito dopo la condanna, scatta la condanna, perché poi no, in questa pseudo uguaglianza, questa così uguaglianza ritenuta tra accusa e difesa, poi si svolge il processo, viene ritenuto che la persona imputata è colpevole di quel reato e quindi viene condannata a un tot di pena di sottrazione di libertà, che è il bene maggiore di questa, non è che ti levano qualche altra, ti levano la libertà, no? E l'autonomia, abbiamo visto, cioè la libertà di disporre del proprio corpo. Allora, subito un attimo dopo quella sentenza, lo vedete nei film, chi c'è passato l'ha visto onestamente, quando il giudice dice lei, Pinco Pallino, è condannato alla pena di anni tot, appena dice punto, non lo dice però si ferma un attimo, le guardie prendono sotto braccio questa persona condannata e la prendono in carico. A quel punto quella persona non ha più nessun livello di libertà, cioè viene presa in consegna da altri, le guardie, che in nome del diritto e della società nel suo complesso hanno pieno possesso di questa persona, di lui o della lei, pieno possesso, cioè quella libertà e quella uguaglianza di partenza, secondo quella presunzione, la presunzione della quale permetteva, ha permesso di rispettare i principi per fare il processo, altrimenti sarebbe vano, nullo il processo, subito dopo la condanna viene abolita, perché quella persona diventa schiava dell'amministrazione carceraria, schiava, lo prendono in consegna alcune persone e quella persona da quel momento non ha più nemmeno la possibilità di, che ne so, di allacciarsi una scarpa, di fumare una sigaretta, viene presa in consegna, tutto quello che farà da quel momento in poi lo decidono gli altri, cioè l'amministrazione penitenziaria. Secondo voi c'è, diciamo, un flusso equipollente tra la prima fase, tutti liberi e tutti uguali, e la seconda? Dalla libertà alla schiavitù il passaggio è troppo breve, è un secondo dopo lettura della sentenza quella persona è schiava di un'amministrazione estranea a sé e ai propri cari, no? Alle persone che gli vogliono bene, e lo è per 24 ore su 24 in pieno e totale dominio di un altro potere che è l'ordinamento penitenziario fino a conclusione della condanna. Questo c'è, quindi continua a esserci in questo sistema la schiavitù, soltanto non è stata abolita del tutto, ma questo non è che lo dico io, per carità, ci stanno grandi studiosi, hanno fatto elaborazioni su 200 anni, quando è stata abolita la schiavitù, si dice che è stata abolita la schiavitù, in realtà riflettendo hanno detto non è che è stata abolita, è stata tolta come status generale, cioè ci stanno delle persone nel periodo schiavistico che nascono schiavi e muoiono schiavi, cioè a vita sono schiavi, quella è stata abolita, non c'è più. C'è però che quando opera la sanzione dopo una presunta violazione della legge, quella persona che il processo decide che ha violato quella legge ridiventa schiava per un periodo limitato, una pena, c'è ancora l'ergastolo in Italia anche per tutta la vita da quel momento in poi. Quindi la schiavitù non è stata abolita, c'è, ma si ripresenta sotto forme che la schiavitù non ti viene per nascita, ma ti viene per attribuzione di uno status che appunto ti toglie lo status di persona libera uguale quella con cui hai partecipato al processo, altrimenti il processo sarebbe nullo, dicono i principi, solo se tu eri libero uguale potevi partecipare al processo e stavi sullo stesso piano dell'accusa, subito dopo la condanna diventi uno schiavo, perché se tu non sei una persona condannata non può avere l'autonomia e la libertà nemmeno di allacciarsi una scarpa, è chiaro che si chiama schiavitù, cioè non hai nessun possesso del tuo corpo, dei tuoi bisogni, delle tue necessità, ma devi chiedere. Tant'è vero che da quel momento la persona condannata deve chiedere ogni cosa, ogni necessità che ha, ogni funzione fisiologica che ha, la deve chiedere all'amministrazione, esattamente come lo schiavo quando aveva fame chiedeva che gli dessero da mangiare, quando doveva fare una cosa chiedeva al padrone che doveva fare. Quindi la schiavitù continua ad esserci, ma soltanto dopo che alcuni soggetti in un istituto chiamato giustizia valutano che a quella persona deve essere sottratta la libertà, quindi torna alla schiavitù per il periodo di tempo della condanna, che appunto continua a esserci per tutta la vita, perché esiste ancora l'ergastolo qui in Italia, in molti paesi europei l'hanno tolto, però in Italia e in altri paesi c'è, quindi anche per tutta la vita. Chiaro questo? Quindi la schiavitù c'è, non diciamo baggianate, queste cose non insegnano a scuola, lo so, ma non è colpa mia, non so il professore, non faccio il professore, se facessi il professore lo direi, probabilmente avrei delle grandi, bacchettate, perché non si può dire la verità a scuola. Non dice perché non sono tutti, ma non c'è bisogno, dice non sono tutti preparati in diritto, ma c'è bisogno di essere preparati. Questo lo dice a parte, lo dice il buon senso, il ragionamento. Basta, poi ci sono dei libri, intanto si dovrebbe leggere qualche libro, no? Va bene. Allora, diciamo, quindi dice abbiamo scoperto semplicemente che continua a esistere la schiavitù. Ma chi dà questo potere all'amministrazione carceraria o penitenziaria per esercitare pieno dominio incontrastato nei confronti della persona detenuta, quindi riducendola in schiavitù? Chi gli conferisce questo potere? Come possono dei soggetti chiamati guardie, assistenti, ispettori, direttori, tutto quel meccanismo, no, che tiene le persone in carcere, che poi fa riferimento al DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che sta qui, che è un dipartimento appunto del Ministero della Giustizia, che sta qui a Roma. Chi conferisce questo potere di rendere schiave delle persone all'amministrazione carceraria? È proprio quella legge, ossia quel concetto di diritto che racchiude tutte le leggi, no? Il diritto che diciamo un po' è l'anima dell'ordinamento giuridico di ogni paese, che dà questo potere all'amministrazione, all'amministrazione o all'organizzazione carceraria di poter tenere in schiavitù la persona condannata per il tempo della pena, per il tempo della durata della pena. Perché questo? Perché è avvenuta questa cosa? Perché attenzione che il carcere moderno, cioè il carcere antico, le punizioni antiche, sapete, erano tutte corporali, no? Io ti do, perché il meccanismo era: io ti devo, tu trasgredisci la legge, cioè operi contro l'ordine di questa società, la società attraverso i suoi sgherri ti dà tante, ti fa del male, ti punisce, ti mutila, ti mette alla gogna, ti infila come lo spiedo dappertutto, insomma ti fa del male per terrorizzarti ed evitare che tu continui a farlo, e anche gli altri. Si faceva infatti nella pubblica piazza la gogna, per esempio qui a Roma si faceva a Piazza del Popolo, si mettevano queste gogne a Piazza del Popolo perché tutta la gente doveva vedere che la persona Pirimpelli, come si chiamava, no? Mario Rossi era stato condannato a tot, era stato ritenuto colpevole di questa cosa, sotto era scritto furto, rapina, quello che era, e quindi veniva esposto sulla pubblica piazza perché tutte le persone libere potessero insultarlo, gli sputavano in faccia, gli facevano angherie. Quella persona era il nemico di tutta la società, quindi veniva esposto in pubblico. Quindi aveva questo, quella è la forma più chiara della schiavitù. Questa cosa poi è stata cambiata, non perché si voleva togliere la sofferenza, perché c'è in altre forme, ma c'è ugualmente, ma perché si voleva dare un carattere moderno alla punizione. Qual è questo carattere che gli si dà? Quello importato dalla rivoluzione industriale, che nel frattempo aveva preso piede in tutti i paesi europei, ma anche altrove, comunque parliamo dell'Europa, ma che poi si è contagiato anche gli altri, che aveva preso. Che cos'è l'organizzazione industriale, la creazione dell'operaio, dell'operaia salariata? È quella che ti compro. La stessa cosa fa il padrone. Il padrone, l'imprenditore, chiamatelo come volete, compro l'energia lavorativa di una persona chiamata operaio, operaia, lavoratrice, lavoratore, come vi pare, per tot ore, per una quantità di ore, gli do una paga per questo compro, ma quelle ore in cui l'ho comprato, quella persona è totalmente dipendente da me, gli faccio fare quello che voglio io, ai ritmi che voglio io, nel modo che voglio io e nel posto che decido io. Quindi anche in quel caso è in piena e totale sottomissione la persona salariata di quello che tira il salario, l'imprenditore, il padrone, chiamatelo come volete. Ecco, quindi allora si disse: noi non dobbiamo più dargli le frustate, le botte, le cinghiate, spegnere la sigaretta sulla brace, non è questa cosa. Dobbiamo togliere la libertà per quel tempo necessario a riparare il danno che questa persona ha fatto alla società col suo reato. Ossia, dice, paragonando il sistema fabbrica al sistema carcere, che diventano uno dipendente dall'altro, cioè il carcere serve a sostenere la fabbrica, quelle persone che non accettano quel rapporto di schiavitù per il tempo necessario per cui il padrone può utilizzare pienamente la tua energia vitale, la tua forza lavoro, qualcuno la chiamerebbe, ma è la stessa cosa. Bene, questa cosa io la compro e dispongo pienamente di questo tempo della tua energia. Come si chiama quella retribuzione? Quindi questa parola retribuzione viene introdotta in carcere. Quindi la retribuzione non più... quindi le violenze, i ferimenti imposti, ma la retribuzione diventa il tempo necessario di libertà che ti tolgo, che lo Stato ti toglie, fa come il padrone, io ti tolgo la libertà per il tempo necessario che serve a riparare il guasto che tu hai fatto alla società col tuo reato. Questo è il concetto, e lì nasce la parola retribuzione. Il carcere è retributivo, cioè ti toglie la libertà e il tempo necessario quindi è come se come vedete, il tempo di fabbrica torna al tempo di carcere nello stesso livello. Il padrone ti prende per quelle ore in cui tu sei dipendente. Poi ovviamente, per esempio, oggi si stanno allargando. Oggi se tu dici, critichi l'azienda per cui lavora fuori dalle ore di lavoro, quindi quando sei tornato a essere persona libera, non più schiavo del padrone, ti denunciano lo stesso, ti cacciano via, ti fanno forzature. E vabbè, questi si sono allargati, qui ormai è il medioevo che arriva galoppando dal passato. Vabbè, ma questo dipende da noi, stiamo fermi e questi non arriveranno dovunque se non li fermiamo. Ma a parte questo, è chiaro che però nel tempo di lavoro il padrone ha pieno possesso delle tue, come l'amministrazione carceraria, che è la,